Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Ore 10, finalmente dal vivo e non in videoconferenza, prende il via la partita veramente strategica di questa fase. La trattativa europea sul fondo per la ripresa post-Covid. Si tratta e ci si scontra, specie tra Italia e Olanda, sul diritto di veto che alcuni paesi, i cosiddetti frugali, vorrebbero mettere sulla concessione del denaro, sull'ipotesi di incremento della parte prestiti e diminuzione della parte a fondo perduto. Se questo è il principale fronte aperto a livello comunitario, in Italia riemerge la questione immigrazione. C'è l'aumento degli sbarchi, certo, ma c'è anche la polemica sul PD per aver votato il rifinanziamento della missione in Libia. C'è l'accordo sulle modifiche ai decreti sicurezza, che sembra ad un passo, ma non è concluso. Ci sono i casi di Covid tra i migranti. Da ieri intanto è legge il decreto rilancio. 55 miliardi per limitare l'impatto della pandemia sull'economia, ma che avranno bisogno, ci informa il Sole 24 ore, di un numero cospicuo dei mitici decreti attuativi, 155 in tutto. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno, sono le 6:32 minuti e 33 secondi ed è venerdì 17 luglio. Non una giornata buona per chi crede in queste cose. Carmelo Lauricella in regia, Anita Panizza in assistenza, Giorgio De Luca in assistenza e redazione insieme ad Alessandro Marco Tulli, Margherita Ina e Francesco Ciaraffo, i nostri autori, la nostra task force, la nostra squadra, nella quale ovviamente ci siete voi, che ne siete parte importantissima. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, gli SMS, WhatsApp scritti. Grazie Marco, che dice: dai che è venerdì, Simone, tieni botta. Sì, sì, teniamo botta. Tra l'altro questa è... con questa settimana, la settimana prossima si chiude questa stagione di 24 Mattino, andiamo in pausa per un mesetto circa, torniamo lunedì 31 agosto poi. Quindi ancora la prossima settimana ci siamo. E poi ci si ferma per un po', un attimo di pausa. E torniamo il 31 di agosto con una nuova stagione, ricchi premi, quotidian e qualche novità, e qualche novità. Ve ne parleremo. La giornata, come vi dicevo, è una giornata che sicuramente agli occhi e i riflettori su Bruxelles, su quello che succederà in questa trattativa che ha due fronti: da una parte il bilancio europeo, dall'altra questo fondo che dovrebbe aiutare la ripresa dell'economia post-Covid. Al centro di tutto, come è naturale, ci sono due visioni diverse di Europa. O due visioni diverse di come utilizzare i fondi europei, quello che vorrebbe l'Italia da una parte, cioè come ci vedono i paesi frugali e come vediamo noi i paesi frugali, e quindi l'ennesimo, il solito scontro che si verifica all'interno dell'Europa, con qualche caratteristica diversa ovviamente, per esempio il ruolo della Germania, un ruolo di mediazione molto forte. Però, come sapete, la storia è questa. I frugali ci vedono come continuano a vederci, e forse qualche ragione ce l'hanno anche, come gli spendaccioni che buttano denaro un po' a caso liberamente. E quindi dicono: oh ragazzi, noi questi soldi siamo anche disposti a darveli, però fateci vedere come li spendete, e dateci la possibilità di mettere un diritto di veto o quantomeno fare una verifichina, che non ci salviate all'Italia per un'altra volta, per farla molto semplice. Noi dall'altra parte gli diciamo: ma guardate che in realtà abbiamo tenuto una discreta disciplina di bilancio, fatta eccezione per la questione del debito pubblico che continua ad essere esplosiva, e le vostre richieste sono eccessive. Quindi da una parte quelli che dicono: volete i soldi a babbo morto, e dall'altra parte noi che diciamo: no, non sono a babbo morto. La situazione è molto difficile, siamo stati colpiti pesantemente dalla crisi. Se vogliamo semplificare all'estremo, i due fronti sono questi. Chiaro che poi le posizioni si estremizzano in questo momento proprio perché è in corso una trattativa, e quindi prendiamole per quello che sono, sia la nostra posizione sia la posizione olandese. Succede sempre nelle trattative, come nelle trattative sindacali, è un classico. Sentiamo Giuseppe Conte comunque. Lasciatemi dire domani più esattamente quello che penso. Sicuramente è una richiesta che non mi appare in linea con le regole europee. Scrive un ascoltatore: no, ma sarà il bonus monopattini, il bonus nonni, il bonus la qualsiasi, Alitalia, Monte dei Paschi, e vedremo autostrade. Cari amici miei, vedremo autostrade. Stiamo affilando le armi, Giuseppe Conte. Sono in partenza per Bruxelles e stiamo affinando, vorrei dire affilando le armi, ma mi sembra una metafora impropria. Stiamo affinando la lettura e lo studio del dossier per questo rush finale. Speriamo che sia nell'interesse di tutti un incontro molto proficuo. Il ministro agli affari europei Amendola. Domani inizia il Consiglio europeo, l'Italia parteciperà e partecipiamo per difendere l'interesse nazionale, che è unito all'ambizione di un'Europa che fa delle scelte ambiziose per combattere la crisi economica a favore di imprese, lavoratori e famiglie. Ancora Amendola. Parteciperemo al Consiglio europeo portando il nostro sostegno alla Commissione europea, alle proposte fatte per un piano per la ripresa economica che è forte, solido, e discuteremo ovviamente di tutte quelle che saranno le scelte da compiere nei prossimi mesi di recessione economica. Salvini, scettico. Posso essere scettico? Perché in tutti gli scorsi consigli europei abbiamo ottenuto zero. L'unico dato certo, vero, concreto è il triplicarsi degli sbarchi. Sono gli sbarchi passati da 3.000 a 10.000, senza redistribuzione. Per quello che riguarda gli ipotetici 1.000 miliardi che l'Europa ci dovrebbe dare nei prossimi mesi, nei prossimi anni, non abbiamo visto ancora un euro e vediamo. Io spero che però oggi il governo italiano ponga anche il tema sicurezza nazionale e immigrazione sul tavolo europeo, perché altrimenti sarà un disastro. Vi vedo particolarmente filo olandesi questa mattina. Sandro da Grosseto scrive: e qualche ragione hanno, ma lo sapete che siamo inaffidabili. E quindi, altro che qualche ragione, le hanno tutte i frugali. Cosa ancora dalla giornata di ieri? Oh, una precisazione innanzitutto. quando ho detto che ci saranno novità quando riprenderemo il 31 agosto, un ascoltatore dice: dal tono col quale l'hai detto sembrava preoccupante. No, non c'è nulla di cui preoccuparsi, ho detto che torneremo, quindi tranquillo. A meno che non ritenga preoccupante il fatto che io rimanga in questa sede, allora sì, sì, allora si preoccupi, perché... Autostrade, Toninelli, per me felicità pura. Sorrido perché è felicità pura per il sottoscritto, sì. Non è che ci credo, è oggettivamente così, non è un'opinione. Abbiamo posto le basi per la revoca, procedura amministrativa per revocare quelle basi che abbiamo posto dall'agosto del 2018, quando abbiamo aperto la procedura per la revoca ai Benetton, ci hanno permesso di arrivare nel luglio del 2020 a fare una cosa diversa, ma con le stesse conseguenze. E niente, nemmeno Toninelli, che pure è bresciano, quindi vicino a quelle aree, riesce a dire Benetton. Si dice Benetton, ok? Abbiamo un sacco di ascoltatori veneti che ce lo scrivono ogni volta quando commettiamo qualche errore. Credo che nasca, se vi ricordate, è un residuo della campagna pubblicitaria che ormai abbiamo tutti in memoria, quegli United Colors of, che, essendo in inglese, ci richiamava l'idea di Benetton. In realtà è Benetton. Salvini chiede l'intervento della Consob. Chiederemo alla Consob di verificare chi ha venduto e chi ha comprato le azioni in questi giorni, chi ci ha perso e chi ci ha guadagnato, perché qualcuno ci ha guadagnato tanto e tanto e tanto. Questo sulle oscillazioni del titolo Atlantia. Cos'altro dalla giornata di oggi? Sempre su autostrade. Sentiamo Vincenzo De Luca, Carmelo Lauricella. Va, sentiamolo su. Dice: non facciamo demagogia. Ovviamente, come sempre in questi casi, se non si vuole fare demagogia, bisogna prevedere anche poi chi paga gli oneri di manutenzione degli assi stradali. Noi possiamo anche dare tutto a tutti, poi qualcuno dovrà cacciare i soldi per fare la manutenzione dei viadotti, dei porti, dei ponti, delle gallerie, e quindi è un tema complesso che va affrontato in maniera rigorosa e seria. O ditemelo voi, io ho l'impressione che in questo periodo De Luca ha preso un po', se volete, anche la campagna elettorale per le regionali, ogni tanto ecceda un pochino. Certo è che la battuta non è male, se la prendiamo come pura battuta, non è la prima volta che la fa, che è questa. In Italia non ne sono tutti consapevoli, ma la riforma più urgente, quella proprio urgentissima, è la riapertura dei manicomi. Cremonese, non bresciano, chiedo scusa, della provincia di Cremona, il Toninelli. Chissà perché lo davo per bresciano, forse ha studiato a Brescia, ha vissuto a Brescia, può darsi, perché... Ultima cosa che vi faccio sentire... Direi questo: la riapertura delle scuole a settembre. Abbiamo detto e abbiamo letto che tutto il personale dovrà fare il test sierologico. Guardate che è imponente come dimensione, sono 2 milioni di test, dice il commissario Arcuri, quello agli approvvigionamenti. L'ufficiale ha detto alle vettovaglie, scherzo naturalmente, dice: siamo pronti a fornirli. Insieme alla ministra Azzolina noi metteremo a disposizione 2 milioni di test sierologici che il personale docente e non docente delle scuole italiane dovranno fare prima della riapertura delle scuole, che per alcune è prevista per il 1 settembre e per altre è prevista per il 15 settembre. È fondamentale che i nostri figli possano tornare a scuola in sicurezza. è molto importante che possano tornare a scuola, se posso è ancora più importante, se vuole giusto, che lo facciano in sicurezza. Noi abbiamo bandito una gara pubblica europea accelerata all'inizio di questa settimana, confidiamo che per il 10 agosto, come si fa in una emergenza e come si fa in un paese normale, i test sierologici siano disponibili. Metto questo elemento di preoccupazione, non è una critica, è un elemento di preoccupazione. Tu fai test sierologici a tappeto su 2 milioni di persone. Se poi quelli che risultano positivi devono fare il tampone, se risultano positivi al Covid, cosa succede all'interno delle scuole a questo punto? Con quanti insegnanti in meno ti trovi? Con quanto personale non docente in meno ti trovi? Cioè, è giusto farlo, bisogna vedere i tempi, perché in questo modo si rischia il 15 settembre di non ripartire nel modo giusto come si dovrebbe. Traffico. Specializzazione, sicurezza, semplicità rendono uniche le soluzioni per la logistica di Replica Sistemi. Da oggi anche nei piazzali con Easy Yard. Easy Yard pianifica, traccia e controlla mezzi, merci e persone in ingresso, sosta e uscita da tutti i plants. Con strumenti di security management automatizza gli accessi, riduce i tempi di attesa degli autisti ed elimina le code. Scopri Easy Yard, lo Yard Management System, su replica.it. Replica Sistemi. Replica successi. Zucchetti Group. Mattino. Buongiorno Spezia, sai perché non stiamo esitando a prenderli sti soldi del MES? Perché fondamentalmente non sappiamo come spenderli, non ci sono chiari programmi, e questo è il punto, e questa evidenzia per l'ennesima volta l'incapacità dei nostri governanti. Simone, vergogna, un mese di ferie, vergogna! Spezia in the morning forever. Wow, Ah, un mese di ferie. Sono 11 mesi che mi sveglio alle 4 del mattino. Datemi un attimo di respiro, un attimo di respiro. E poi, come in tutte le aziende, qualcosa bisogna smaltire, Sarà capitato anche a voi. Caro Enrico Zanetti, dottore commercialista, già vice ministro all'economia, come sta Zanetti? Buongiorno, bentornato. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, l'abbiamo chiamata oggi perché? Perché molti nostri ascoltatori, specie i piccoli imprenditori, specie le partite IVA, ma non solo loro, anche i suoi colleghi Zanetti, sono un po' con le mani nei capelli, perché la giornata del 20 luglio, ossia di lunedì, concentra una serie di scadenze fiscali impressionanti. Ci sono 51 versamenti da fare, poi 65 versamenti entro il 30 di luglio, 26 entro il 31 luglio. È un numero pazzesco, ma soprattutto c'è la preoccupazione perché? Perché le aziende i soldi in cassa per pagare questi soldi del 20 luglio semplicemente non ce l'hanno, no? Beh, non c'è dubbio, diciamo, ci sono rispetto a tutte queste scadenze, la principale delle quali, che in termini di impegno nei conteggi, che in termini di impegno finanziario di versamento, è quella del saldo e primo acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, sono ovviamente un problema significativo sotto due profili, cioè quello ovviamente generale del contribuente che deve versare per la liquidità, e poi naturalmente c'è anche l'aspetto un po' più circoscritto, ma oggettivo, operativo per i professionisti, i consulenti, cioè coloro i quali preparano tutti i conteggi e preparano sostanzialmente la dichiarazione, ancorché venga poi presentata dopo, sulla base della quale risultano gli ammontari da versare. Quest'anno, con tutto quello che è successo, si era dato un po' per scontato che poi alla fine, perlomeno al 30 di settembre, almeno per tutte le piccole partite IVA, quelli che hanno i cosiddetti ISA, gli ex studi di settore, cioè fino a 5 milioni di euro di fatturato, si sarebbe appunto andati al 30 settembre, e lo si dava per scontato anche perché basta pensare che anche l'anno scorso, che insomma non erano successi i disastri che sono successi quest'anno, questa misura era stata adottata a fronte di un semplice ritardo nell'erogazione di quelle che erano le procedure legate appunto agli, sì, agli ISA, cioè agli ex, sì, studi di settore. Cioè, quest'anno è successo di tutto, lockdown, 2 mesi di chiusura, anche gli studi appunto in grossa difficoltà, liquidità carente. Zanetti, il governo tra l'altro aveva fatto subodorare l'ipotesi di un rinvio a settembre, pur poi non dicendolo esplicitamente, dicendo vedremo, forse, eccetera, eccetera, e però poi non si è visto. Ma diciamo, il governo aveva determinato questa aspettativa anche per quello che è il passato. Aveva poi fatto un DPCM con cui aveva spostato la scadenza originaria dal 30 giugno al 20 luglio, perché con lo strumento del DPCM 20 giorni era la misura massima di riferimento per differire di più, ci vuole un intervento di legge. Si pensava che sarebbe stato introdotto o quantomeno nel decreto rilancio in sede di conversione, non è stato fatto, ormai siamo arrivati. Io però ho un'idea abbastanza chiara, anche perché ho una certa confidenza con le logiche che funzionano da quelle parti. Secondo me, siccome ci sono comunque, anche dal punto di vista dello Stato, delle carenze di liquidità, dei bisogni urgenti, si è preferito non disporre una proroga ex ante, cioè prima, si lascia passare la scadenza, si vede quanti versano, dopodiché, secondo la più classica delle norme, che l'atto ha dato, chi ha avuto, ha avuto, ad agosto, durante la conversione magari del DL semplificazione, faranno una normetta dove diranno: chi versa tardivamente, perché ormai la scadenza è passata, sì, ma comunque entro il 30 settembre, non avrà sanzioni. Cioè, in poche parole, si farà ex post. Una proroga ex post. Cioè, esiste solamente in Italia una cosa di questo genere, Zanetti. Ovviamente è una previsione, non c'è nessun impegno. Sì, sì, certo. No, è chiaro, però è una previsione credibile, perché sono cose che abbiamo già visto. Sì, sì, no, ma è tutto evidentemente. Quest'anno vogliono cercare comunque di fare una sorta di pressione, prendere tutto quello che possono da parte di chi dice: vabbè, non voglio correre rischi visto che la proroga non c'è, intanto verso, e poi appunto con la logica chi ha avuto avuto e chi ha dato a posteriori riapriranno il termine, perché a quel punto, una volta che il termine è passato, se non dai l'incentivo a versare entro il 30 settembre senza sanzioni, c'è il rischio che ti versino ancora dopo, perché la sostanza è che probabilmente, un po' per problemi nei conteggi, ma molto di più per problemi di liquidità, non saranno pochi coloro i quali non rispetteranno la scadenza. Anzi, paradossalmente, meno la rispetteranno e più è probabile che riapriranno i termini. È molto triste quello che sto dicendo, però. Sì, purtroppo è. Insomma, non è una pratica nuova, appunto, Zanetti. Parliamoci chiaro, poi chiaro, la situazione è diversa, il post-co... diciamo che si arriverebbe addirittura probabilmente a questa, potrebbe arrivare a questo inedito addirittura della Sanatoria Expos. Di solito le proroghe, ancorché last minute, il giorno stesso della scadenza, sì, il giorno prima, cioè sempre comunque all'ultimo, di solito venivano date quantomeno nei termini. Quest'anno non è stata data, e forse arriverà, sbaglierò, ma probabilmente poi l'esito sarà questo. È un po' come se il governo dicesse: se volete la proroga, venitevela a prendere se avete coraggio. Ecco qua, grazie Enrico Zanetti, buona giornata, grazie ancora. Ci fermiamo, GR24, ci ritroviamo subito dopo, come sempre, con la rassegna stampa. Tante cose anche oggi, tante cose, a dopo. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba, perché è semplice, è completa e conveniente, da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba, chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.